Non dimentichiamoci che il giro vita è importantissimo. Noi tante volte ci pesiamo. Adesso misurerò anche l'avvocato Cirla, tanto che qua dopo la trasmissione. Ma sei in perfetta forma. Becco anche lui, dottor Gargiulo. Finché in tempo. Giulio, buongiorno. Buongiorno dottoressa Nicoletta, buongiorno dottor Gargiulo e la nostra cara Deborah, buongiorno a tutti. Io non sono dottoressa, sono infermiera. Consiglio ulteriore, sì. Niente sale e un po' di attività fisica. Un'ora al giorno può ridurre di 5-10 minuti. E toglie il dottor Gargiulo di torno, mi verrebbe no, da dire. Carità. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. È vero, Laura non c'è, Laura Vanossi, la nostra assistente al programma, però ci sono Isotta Scenna e Marco Lombardo e soprattutto per me oggi non c'è Nicoletta Carbone. Volevamo tenerlo nascosto ieri, ma alla fine mi è scappato, però non preoccupatevi perché tornerà domani, ha preso il volo solo per la giornata di oggi e chissà se per questa volata ha usato la nuova auto volante Aeromobil. Probabilmente ne avrete letto qualcosa sui giornali la settimana scorsa, è un'auto nata dall'idea di un designer slovacco ed è pensata come un utilitaria con le ali, capace di percorrere la distanza tra Milano e Roma in 3 ore. Adesso ci sembra qualcosa di impossibile e fantascientifico, ma in realtà chissà quanto ci costerebbe assicurarla. Abbiamo tempo per pensarci, rimaniamo con i piedi per terra e occupiamoci delle nostre automobili, perché ci sono delle novità sul fronte delle assicurazioni, o per la precisione dovrei dire sul fronte dei tagliandi. Buongiorno a Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia. È così? Buongiorno, sì, esattamente così. Qual è la novità allora? E tra l'altro probabilmente avremo un sistema nuovo per avere l'individuazione di queste benedette vetture fantasma che in Italia circolano abbondantemente. E quindi insomma entro qualche mese, credo che la tempistica che ci si è dati è di 18 mesi, il tagliando assicurativo sarà sostituito nella sostanza da un contrassegno elettronico, magari potrebbe anche aiutare questa novità a ridurre i premi delle assicurazioni che sono diventate un vero salasso per le famiglie. E allora 800 24 00 24, il numero verde a disposizione dei nostri ascoltatori, se volete sapere tutte le novità sui tagliandi e in generale per fare la vostra domanda sull'RC Auto, che lo sappiamo in Italia è la più cara d'Europa, e ne parleremo per tutta la puntata, più tardi anche con un altro esperto, con Alessandro Santoliquid, amministratore delegato di Sara Assicurazioni. E a proposito di tagliando, stare ore e ore alla guida può risultare una specie di tagliando, meglio un test per la nostra postura. Chi dopo un lungo viaggio non si sente la schiena a pezzi, il collo bloccato, le gambe gonfie, per quello che mi riguarda? Allora, per evitare tutto questo bisogna assicurarsi una buona postura, ce lo conferma il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno. Allora, siamo orfani della Nico. Per oggi sì, ma però torna oggi, presto, dai. Torna presto, capiterà qualche si volta. Prende, certo. Allora, dimmi come guidi e ti dirò che cosa rischi. Esattamente. Beh, direi che la sua premessa è assolutamente corretta per lunghi viaggi. Ecco, cominciamo magari a togliere strane sensazioni o strane paure. È evidente che solo un viaggio prolungato, io direi oltre l'ora di seduta in auto, può dare dei problemi, al di sotto di quello è difficile che accompagna chissà che. Però è molto importante, visto che molti di noi passano molte ore in automobile al giorno e quindi che questa è una sollecitazione molto importante per la schiena, avere delle semplici regole da attuare. Io direi che il consiglio da dare genericamente è quello di scegliere un'auto che ha un sedile regolabile, ove possibile, e questo ormai anche nelle auto diciamo più economiche ci sono questi sistemi di regolazione. Bisogna tenere il sedile avanzato, cioè vicino al volante, avere le ginocchia flesse a 90 gradi quando si è seduti, e lo schienale piuttosto eretto. Dottore Spizzi, però non ci dica tutto adesso, se no sveliamo tutti i misteri della postura corretta nelle anticipazioni, però già dei suggerimenti molto importanti ce li ha dati, e soprattutto noi oggi vogliamo darli a chi, e ci sono tanti ascoltatori di Radio 24, tra questi chi lavora appunto guidando tutto il giorno, ci sono molti autotrasportatori che sono sempre alla guida delle nostre trasmissioni che salutiamo, e se hanno questi problemi li invitiamo a chiamarci e daremo loro tutti i suggerimenti del caso. Quindi, oltre al numero verde, anche 349-238-6666, se siete alla guida, raccontateci in diretta che fastidio sentite, quale parte del corpo vi sembra più sacrificata o in tensione. Il dottore Spizzi farà con noi il punto della situazione intorno alle 11.30. E a proposito di tensione, non parleremo solo di tensioni articolari o muscolari, ma anche di quelle tensioni che fanno saltare i nostri nervi quando siamo alla guida. Siamo capaci in certe circostanze davvero di tirare fuori il peggio di noi, e tira fuori il peggio di sé anche il più mite pacifista quando si trova alla guida e magari proprio si trova, che ne so, infilato nel traffico, non ne riesce ad uscire, e allora ci darà anche dei suggerimenti per queste persone il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Dottor Aquilar, buongiorno, ma perché ci si arrabbia tanto alla guida? Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ma ci sono delle ricerche che spiegano alcune delle caratteristiche che ci fanno arrabbiare alla guida, che riguardano i comportamenti degli altri. Per esempio, la violazione pericolosa delle norme, l'uso inappropriato dei fari abbaglianti, ovviamente gli insulti, l'eccesso di velocità che può essere pericoloso, e tutto quello che ci consente di subire un intoppo o un ostacolo quando siamo costretti, per colpa tra virgolette, dell'altro, a rallentare, a fermarci, o perché l'automobilista davanti passa un quarto d'ora a salutare un amico bloccando tutto il traffico. Questi sono alcuni dei fattori di innesco. A me fanno innervosire quelli che vanno a zig zag davanti a me e poi li pesco che sono al telefono, e quindi chiaramente non riescono a tenere bene il volante, di conseguenza l'auto va un po' per conto suo, quello sì che mi fa saltare la mosca al naso. E allora invito i nostri ascoltatori: che cosa fa saltare a voi la mosca al naso quando siete in auto? Mettetevi comodi, assicuratevi un buon ascolto, prenotatevi all'800 24 00 24, perché ne parleremo dopo il GR delle 12, e allora allacciate le cinture di sicurezza, si parte. Salva Danaio. E te pareva la donna? A Moby Dick, ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, fracicone, ma come, io stavo andando tanto bella regolare, te che fai, mi inchiodi? E inchiodo sì, c'è star semaforo, tu guida la cazzo de cane. Ma tu guarda che mi ha combinato sta facottara. Ma de che, amore, ma se manco te l'ho toccato sto cacatore di macchina. Modena, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te. Ma come te permetti, a pecoraro, a caffone. Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle pare Giuliano Ferrara. Ma vedi, annate, una broccola e ma fallo finire che se notte addobbo. Ma fammi morire ammazzata, a te chi non lo dice, ma tu guarda sta budellona sul volo. Eccole qua, situazioni anche abbastanza ricorrenti. Le macchine praticamente non si sono neanche toccate, ma invece se le sono dette di santa ragione i due protagonisti appunto di questo piccolo incidente stradale. Oggi avete capito, parliamo di auto, di viaggiare assicurati in auto. Oggi a Cuore Denari partiamo dai denari e quindi dalle nostre RC Auto, un vero e proprio grattacapo a dir poco per gli automobilisti italiani, perché pagano molto e le statistiche continuano a confermare che anche in questo settore siamo i più cari d'Europa, però è anche vero che in Italia abbiamo problemi diversi rispetto al resto d'Europa. Allora, intanto raccontateci quanto pagate per l'assicurazione dell'auto, quali sono i problemi o le difficoltà che avete riscontrato nel rapporto con le compagnie, raccontatecelo e i nostri esperti sono pronti qui a rispondere alle vostre domande. Abbiamo, come vi anticipavo prima, Fabrizio Premuti, presidente dell'Associazione dei Consumatori Consumer Italia, e Adriano Santoliquido, che non abbiamo ancora salutato, l'amministratore delegato di Sara Assicurazioni. Dottor Santoliquido, benvenuto anche a lei. Salve. Buongiorno, allora volevo cominciare subito con Premuti, perché il punto di vista delle associazioni dei consumatori è sempre molto interessante, a loro non sfugge niente. Qual è la situazione italiana, perché i premi delle assicurazioni auto sono così alti, Premuti? Beh, il problema è abbastanza complesso, chiaramente il perché non risponde soltanto con una risposta, ma il problema è ampissimo. Partiamo intanto da un'incidentalità che sicuramente in Italia è più alta che nel resto d'Europa, per poi passare ad esempio proprio alle vetture fantasma, l'abbiamo accennato prima, che pensate pesano per il 7-10% del premio assicurativo che paghiamo. Si calcola che siano oltre 3 milioni i veicoli senza RC auto che circolano in Italia. ahimè siamo molto vicini ai 4 milioni e questo è un problema enorme, perché chiaramente circolano queste vetture, ma non è che non facciano disastri, gli incidenti ne fanno lo stesso, esattamente nella stessa media in cui capitano agli altri. Il problema vero è che questi poi scappano, fuggono dopo aver causato un incidente, o addirittura non permettono il soccorso nell'immediatezza del fatto, persone che poi rimangono troppo coinvolte a livello fisico con enormi problemi. Aspetti lì premuti, perché come già immaginavamo appunto non sentiamo bene il collegamento telefonico, adesso tentiamo di ripristinarlo perché il tema è molto caldo e vedo già che stanno fioccando le domande dei nostri ascoltatori che vogliono commentare questa situazione che molti di loro giustamente considerano inaccettabile, ma la considerano inaccettabile anche le stesse compagnie di assicurazione, perché devono incaricarsi anche della situazione problematica nella quale molte aree d'Italia si trovano. Adriano Santoliquido, lo ricordo ancora, amministratore delegato di Sara Assicurazione. Vorrei subito farle spiegare appunto in che cosa consisterà questo tagliando telematico. Della sostanza, entro un anno e mezzo non avremo più l'obbligo di esporre il contrassegno assicurativo sul parabrezza. Prima introduciamo questa novità, poi cerchiamo di capire se potrà portare degli effetti positivi sia in termini di lotta all'evasione assicurativa sia in termini anche di premi appunto, che ancora sono abbastanza elevati in Italia. Che cos'è il contrassegno elettronico, Santoliquido? Il contrassegno elettronico praticamente consiste nel non stampare più un contrassegno cartaceo, ma consegnare al cliente semplicemente la polizza con un certificato di assicurazione, che praticamente è un pezzo di carta stampato su carta normale, e il controllo quindi della validità della copertura assicurativa potrà essere fatto accedendo alla banca dati che le assicurazioni stanno predisponendo, e conterrà appunto tutte le targhe, tutta la situazione assicurativa delle singole autovetture. Santoliquido, mi scusi, le posso chiedere se ha un viva voce? Potrebbe utilizzare la cornetta, che per noi è preferibile? Fatto. Grazie mille. Quindi insomma arriverà questa novità, il tagliando trasparente, chiamiamolo così, però in qualche maniera le forze dell'ordine dovranno essere messe a conoscenza del fatto che un automobilista è assicurato o meno. Come farà un agente di polizia che ci fermerà perché magari stiamo commettendo un'infrazione? Ma ci sono vari modi. In primis può controllare appunto il certificato assicurativo, quindi il pezzo di carta che già oggi accompagna il contrassegno, che dovrà continuare a essere messo dalle compagnie. Ammettendo che l'automobilista non possa esibirlo? Se non lo puoi esibire, ripeto, questo certificato assicurativo è ancora più facile da contraffare rispetto al contrassegno. Quindi se l'agente ha dei dubbi potrà o contattare la propria centrale, che si potrà collegare alla banca dati che sarà fatta presso la motorizzazione, oppure potrà accedere a questa banca dati anche con un telefonino, con un SMS. Stiamo ancora predisponendo i dettagli di questi accessi, però diciamo che tecnologicamente sono abbastanza semplici da realizzare, quindi basterebbe bastare un semplice telefonino per verificare la copertura assicurativa. Anche perché adesso nella sostanza il procedimento sta andando avanti, è partito tutto a metà ottobre, adesso si devono mettere in comunicazione due grandi banche dati, quella dell'ANIA, che è l'associazione appunto che rappresenta le compagnie di assicurazione, e la motorizzazione civile, perché si deve fare un riscontro tra polizze erogate, polizze sottoscritte e auto circolanti. Santoliquido, mi sbaglio? Certo, questo è già possibile farlo oggi. Si sta già cominciando a fare questa tipologia di controlli. In teoria anche oggi sarebbe possibile controllare la circolazione di macchine non assicurate, perché era già previsto che con le varie telecamere che sono installate in giro sulla rete stradale, autostradale, in città eccetera, si possa verificare se una macchina che circola in quella zona è assicurata o meno. Il problema è che manca però una norma di legge, che dovrebbe essere fatta a breve, che permette poi di sanzionare direttamente chi non fosse assicurato. Insomma, quindi manca ancora un passaggio legislativo che speriamo verrà colmato. Adesso le chiederò, Santoliquido, come vede questa novità tutto il settore appunto delle assicurazioni, quindi le compagnie che cosa ne pensano, perché a quanto pare ogni tanto comunque anche queste, per poter affrontare il tema dell'evasione assicurativa, il tema dell'attività fraudolenta, dei tagliandi falsi, anche voi dovete continuamente sostenere degli investimenti. Ritorno però a Fabrizio Premuti per capire cosa ne pensano invece le associazioni dei consumatori, che sono più preoccupate delle tasche delle famiglie italiane. Secondo lei, Premuti, il tagliando telematico porterà qualche beneficio in termini economici a chi si assicura, a chi guida sempre correttamente, chi non si arrabbia, chi non fa incidenti? Beh, questo è quello che noi speriamo, ovviamente, però un minimo di critica io sulla norma ce l'ho e vorrei esporlo. Sicuramente è un passo avanti e su questo siamo d'accordo, ci sarà sicuramente un controllo diretto e per via telematica. Però voglio dire, a me sembra come al solito la solita toppa che viene messa alla norma e non si affronta il problema nel suo complesso, perché questo è vero, ma senza un controllo effettivo, senza una norma che preveda a chi io pescherò senza assicurazione, che cosa gli facciamo oltre la multa e il sequestro del veicolo? Perché il sequestro del veicolo e non la confisca? Togliamo dalla circolazione questi veicoli che veramente camminano senza assicurazione. È qui che dovevamo essere più incisivi, io penso, a livello di norma. È inutile dare la possibilità a chi circola senza assicurazione di rientrare poi in possesso del proprio veicolo e magari ricominciare. Quindi lei dice, insomma, gli si dovrebbe togliere direttamente la patente, quindi non permettergli più di circolare, oltre che confiscare il veicolo, non sequestrarlo, confiscarlo, cioè questo significa toglierlo dalla proprietà per sempre. Mm-hmm. Metterlo nella disponibilità dello Stato, eventualmente rottamarlo, perché sappiamo benissimo che chi fa questo giochino molto spesso va in giro con un router di macchina che è un pericolo perché non assicurato, è altamente inquinante, è un ulteriore pericolo perché è un router. Santo Liquido, che ne pensa? Condivide questa posizione dell'Associazione dei Consumatori? Ma io sono assolutamente d'accordo, tra l'altro volevo far notare che recentemente sono stati introdotti dei benefici per chi paga le multe in tempi rapidi. Sì, infatti, uno sconto del 30% in 5 giorni. E questo ha fatto sì che anche la multa per la mancata assicurazione sia stata ridotta nella stessa misura, quindi in realtà sono state ridotte le pene, certo. non aumentate. E intanto, sono d'accordo con Premuti. Certo, intanto che assistiamo a tutto questo movimento e questo fermento legislativo e non solo per poter combattere, ribadisco, l'evasione assicurativa, le compagnie truffaldine appunto che operano sul nostro territorio addirittura senza essere iscritte a nessun tipo di registro di intermediazione, mentre combattiamo anche chi fa degli incidenti falsi per poter riscuotere appunto dall'assicurazione un indennizzo che addirittura qualche volta rappresenta per qualcuno, perché pure questa teoria ho sentito, un ammortizzatore sociale, qualcuno utilizza l'assicurazione anche per questo, però ecco, le famiglie combattono con i problemi di sempre che sono le tariffe molto alte e qualcuno denuncia, lo denunciate anche molto frequentemente quando facciamo queste trasmissioni, io non ho mai incidenti, la mia polizza continua ad aumentare, come è successo a Rosa da Roma all'800 24 00 24. Rosa, buongiorno. Sì, buongiorno. Io contestavo il fatto del fatto che da quando si parte già direttamente con la prima assicurazione si debba partire da un premio estremamente alto. Poi se siamo virtuosi, se siamo bravi, tutto quanto, allora si declassano, cioè dalla 14ª si arriva a quella che può essere la prima. Allora io mi domando, ma perché devo partire con l'idea che già sono un cattivo guidatore o meno e non posso partire già dalla minima? Poi se sbaglio, a quel punto mi aumenti l'assicurazione, mi aumenti quello che vuoi in base alla tipologia dell'incidente e quindi sarà mia cura essere sempre molto attento alla guida per far sì che questa non mi aumenti. Mm-hmm. Rosa, sentiamo un po' che cosa ne pensa la compagnia di assicurazione. Alessandro Santo Liquido, l'ascoltatrice, dice insomma qua un po' mette un po' il dito nella piaga del problema attuale, no? Insomma, più siamo bravi, più in realtà l'assicurazione va al contrario, perché è difficile spiegare ad una persona che comunque anche il conducente più virtuoso deve pagare per tutti quelli che anche non pagano. Certo, anche perché dobbiamo ricordarci sempre che a oggi la frequenza sinistri, cioè il numero di sinistri per ogni 100 macchine è attorno al 5-6%, quindi vuol dire che generalmente una persona ha un sinistro con colpo una volta ogni 20 anni, in media italiana, in certe zone ancora molto più bassa, quindi per molti di noi è normale non aver avuto incidenti negli ultimi 15, 20, 30 anni, in ogni caso però ognuno di noi è esposto alla probabilità di avere incidenti, che questa qua appunto media del 5%, quindi anche se io non ho avuto mai incidenti recentemente, in realtà sono esposto a questa probabilità e le compagnie purtroppo devono far pagare i premi in relazione a questa probabilità. Il fatto che l'importo del premio sia più o meno alto nei vari paesi dipende da quanti sono questi sinistri per ogni 100 macchine, dipende anche moltissimo quali sono le regole con cui io risarcisco questi sinistri. Come dire, noi dal punto di vista statistico lo capiamo anche, poi dal punto di vista del bilancio delle famiglie lo si capisce un po' meno, forse appunto la lacuna legislativa è quella che la nostra ascoltatrice ha indicato, in realtà forse dovrebbe essere trovato un meccanismo che premi i conducenti virtuosi piuttosto che penalizzarli continuamente, poi capiamo anche le ragioni delle istituzioni e delle compagnie. Allora, come avete sentito, sono tanti i motivi per cui è importante viaggiare con un'auto assicurata, quindi anche se si siete un po' frustrati perché il premio è alto, continuate a pagarlo lo stesso perché ci sono tanti pazzi in giro, per cui è bene essere protetti. Nonostante i prezzi dei premi, e lo sappiamo, in Italia sono davvero alle stelle, è anche importante al tempo stesso assicurarsi, come dicevamo in apertura, una postura corretta quando si guida, ed è il punto di vista del cuore che, anche se siamo in assenza di Nicoletta Carbone, non potevamo certo dimenticare. Risalutiamo il dottor Respizzi, che è pronto a darci alcuni importanti consigli per la nostra postura quando siamo in auto. Dottor Respizzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'abbiamo risalutata, ma adesso le devo chiedere ancora due minuti di pazienza perché andiamo a sentire cosa succede sui mercati finanziari. Ma ci sono tanti ascoltatori per lei che ci raccontano come guidano, come si mettono, con che tipo di postura, e addirittura qualcuno è pronto anche a dare suggerimenti ad altri ascoltatori che magari a questo problema non hanno mai pensato. Cuore e denari. Hai visto il nuovo modello della Subaru? No. Subaru SV. Perché la tecnologia fa passi da gigante. Beh, sono elettroniche. Senti, ma fammi sentire il clacson, che a me piacciono i clacson delle macchine. Siccome ho preso il modello base, il clacson deficita un po', Ah, ma hai preso la Subaru Baracca? No, eh? SV, va, ma va quel... Allora, spostaci! Ciccio? Allora? Sì, ma... Nino? Sì, ho capito, ma rilassati. Rilassati un attimo, dai. Porca miseria. Gli imperdibili Aldo, Giovanni e Giacomo, che hanno una gag anche naturalmente sull'auto. Oggi a Salvadanaio, oggi a Cuore Denari stiamo parlando di assicurare la nostra auto. Ma è anche importante assicurare la nostra schiena, perché per chi sta ore e ore al volante il dolore è in agguato, e lo sanno anche tanti nostri ascoltatori che ci seguono ogni giorno dall'auto, dal camion, dal furgone, che guidano senza sosta da una parte all'altra dell'Italia e sono dolori davvero per la schiena. Per cui salutiamo tutti in linea con noi, abbiamo il dottor Respizzi pronto a rispondere anche alle vostre domande all'800 24 00 24. Poi torneremo sulla questione dei premi assicurativi e anche di quello che si può fare nel nostro paese per combattere l'evasione assicurativa. Allora, dimmi come guidi e ti dirò cosa rischi, dottore Respizzi, perché è così importante fare attenzione alla postura quando si è in auto. È così importante perché l'auto obbliga per un periodo prolungato, se si supera ad esempio l'ora di guida, a una posizione vincolata, soprattutto per il guidatore. È evidente che un passeggero è più agevolato, ma il guidatore è vincolato al volante ad una posizione che spesso non è esattamente fisiologica, e la nostra colonna assume delle curve che non sono la cosa ideale, evidentemente. Occhio anche ai dettagli, perché per esempio lo specchietto retrovisore e il volante sono ottimi test per verificare se la nostra postura è corretta. Io poi sono molto alta, dottor Respizzi, sono sempre un po' gobba quando guido, mi viene di accasciarmi in avanti. Assolutamente, questo è proprio tipico. Come avevo iniziato a dire prima, noi dovremmo prendere una postura di guida abbastanza poco fisiologica, diciamo, cioè vicini al volante, con i gomiti flessi, con le ginocchia a 90 gradi, con il sedile, con lo schienale abbastanza dritto. È una cosa un po' alla Fantozzi, diciamo così, ecco. Però è molto comodo per la nostra colonna, perché questo garantisce di avere una buona curvatura a livello lombare, di non avere la gobba, mediamente, e quindi di stare più corretti. E lo specchietto retrovisore è l'ideale. Io devo regolarlo appoggiando, avvicinando la testa al sedile il più possibile, quindi sostanzialmente fare in modo che tengo il collo allungato. Chiaro che per persone alte questo è più complicato. A quel punto regolo lo specchietto, e se riesco a vedere bene in quella posizione, ogni volta che dovrò guardare dietro cercherò di raggiungere ancora quella postura, quindi cercherò di allungare un po' il collo verso l'alto e verso l'indietro, e quindi eviterò la posizione ingobbita verso l'avanti. Dottore Spitti, ci sono tantissime domande per lei, adesso sentiremo Massimo da Mantova, Antonello da Legnano, Francesco da Venezia, ma prima voglio interpellare anche gli altri ospiti che ci stanno facendo compagnia stamattina. Alessandro Santoliquido, lei come guida, con che postura? Si è mai fatto questa domanda o è un distratto da questo punto di vista? L'ho fatta anche perché ho seguito le corse di guida sicura, quindi mi hanno insegnato un po' come guidare, quindi cerco il più possibile di rispettare quello che mi hanno insegnato. Ho capito. Anche Massimo da Mantova ha seguito un corso di guida sicura organizzato, non lo so, dalla sua azienda. Massimo, buongiorno, qual è la sua domanda per il dottore Spizzi? Buongiorno signora Deborah. Buongiorno. Io confermo quanto detto il dottore, perché tramite le mie aziende ho avuto l'opportunità di seguire questo corso di guida sicura e ti rendi conto che l'educazione è fondamentale non solo nella guida ma anche proprio nella postura. E io lo consiglierei a tutti quanti, anzi io se fossi il legislatore lo proporrei obbligatoriamente a tutti gli automobilisti. Soprattutto perché, certo, chi usa molto l'auto per lavoro evidentemente. Sì, io faccio un lavoro di rappresentanza per cui sono in auto tutto il giorno e soprattutto impari, al di là delle norme che teoricamente uno dovrebbe seguire, l'importanza delle distanze di sicurezza. Certo, Massimo, ma mi ascolti, una volta che lei ha fatto il corso, poi quando si rimette seduto in auto ed è pronto a ripartire, si ricorda di tutte le regole? Oppure qualche volta le capita di dimenticarsene, se improvvisamente le vengono in mente si rimette a posto alla guida? Io ho avuto occasione di cambiare più auto, ma la cosa che faccio principalmente è quello di regolare immediatamente il sedile. Mm-hmm. Quindi questa è una cosa che io consiglio a tutti quanti, perché regolando bene il sedile, come diceva giustamente il dottore, mi sono spariti i mal di schiena, ma soprattutto la guida è anche molto più attenta. Ottimo. Massimo, allora i suoi consigli li trasferiamo anche agli altri ascoltatori che questa mattina abbiamo appassionato su questo argomento. Prima di sentire il responso del dottore Spizzi, il commento su questa nuova abitudine del nostro ascoltatore, sentirei anche Antonello da Legnano. Antonello, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io vi seguo sempre. Una cortesia, faccio il venditore, quindi giro più o meno tutto il giorno, faccio 80.000 chilometri all'anno. A parte aver imparato fino a giù il gomito dal finestrino, il cambio automatico, l'auricolare, il viva voce e quant'altro. Bravo, infatti. E fare attività fisica, perché dopo i 40 ci vuole. ogni tanto però alla base del cranio mi entra un dolore che sembra reumatismo, ma non è. Ho fatto tutti gli esami ed è tutto a posto, però non lo so, forse... Alla base del cranio. Antonello, sentiamo il dottore Spizzi, che ne so, magari alla guida siamo sempre un po' tesi, dottore, quindi forse una contrattura, guardi come mi improvviso questa mattina, io ortopedica, medico. Beh, io direi che le cause possono essere due di quello che riferisce il nostro ascoltatore. Una è sicuramente la posizione degli arti superiori. Prima dicevo di star vicini al volante, col gomito flesso. Di solito invece la tendenza è avere le braccia allungate e tenere il volante tipo un pilota di Formula 1. Questa posizione a braccia allungate mette molto in tensione la parte posteriore del collo, quindi non soltanto a livello lombare, ma anche a livello del collo si possono creare grandi tensioni. Quindi se invece io sto con le braccia flesse, sicuramente riduco la tensione posteriore. Purtroppo, questo è il carico, diciamo così, noi viviamo in una realtà in cui il traffico è discretamente caotico. Se quel nostro ascoltatore, far rappresentante, da come ho capito, sta tantissimo in strada, soprattutto in città, è ovvio che la tensione si genera volente o nolente, evidentemente. Quindi ancora di più il consiglio è di stare molto avvicinato, ogni tanto fermarsi, farsi un giretto fuori dall'automobile e riprendere la posizione, cercare di allungare un po' il collo, muoverlo soprattutto e di non mantenere sempre una postura fissa. Lo terrò anch'io bene a mente, perché giovedì mi accingo a fare il consueto viaggio mensile verso la mia famiglia nelle Marche, 4 o 5 ore di viaggio, esatto, e mi tocca ogni volta fermarmi a prendere un caffettino, come al solito. Francesco da Venezia ci pone un altro tema, quello delle ginocchia. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono un camionista, per cui come postura di guida con il camion si riesce ad avere le ginocchia a 90 gradi, però con le berline in vettura è difficile tenere le ginocchia a 90 gradi. Mm-hmm. E quindi volevo chiedere al dottore come si fa. Certo, Francesco, grazie. Dottore Spizzi, come può fare il nostro camionista? Direi che il nostro amico camionista ha detto la cosa giusta, non è un caso che i camion sono fatti così, perché loro fanno milioni di chilometri e non ce la farebbero se avessero una postura tipo berlina. Nella berlina cosa si può fare? Bisogna avvicinare il sedile il più possibile alla pedaliera, poi chiaramente le automobili non è che sono tutte perfette dal punto di vista ergonomico, però cercare di avvicinare il sedile alla pedaliera finché nella posizione, sulla frizione, sull'acceleratore non raggiungo i 90 gradi delle ginocchia è la cosa ideale. Può sembrare innaturale, ma se alzo anche lo schienale e faccio in modo che anche il bacino e il lombare siano a 90 gradi, è una cosa che si può riuscire a fare su quasi tutte le automobili, quindi si tratta di andare più avanti possibile. Sembrerà strano, sembrerà un po' anche imbarazzante magari come postura, però insomma è più comoda per la schiena. Chiudiamo, dottore Spizzi, con due consigli di genere. Partiamo dagli uomini: è vero che è meglio che tolgano il portafoglio dalla tasca quando guidano? Dipende quanto spesso è il portafoglio, diciamo così, visto che siamo in mezzo ai denari qua. No, a parte gli scherzi, è chiaro che qualunque fattore disturbante e avere naturalmente un portafoglio che ha comunque un certo spessore sul gluteo, evidentemente dà fastidio, perché mi costringe a stare col bacino inclinato dall'altra parte, evidentemente, certo. Scivolo dall'altra parte. E quindi questo rischia di mettere in condizioni non perfettamente in asse la colonna lombare. Quindi per i maschietti direi toglietevelo, mettetelo nella giacca invece che averlo nella... pantalone. Sentiamo invece che cosa possiamo dire alle donne. Queste donne che ci prendono la macchina e non ascoltano il motore, perché la donna, se ci pensate bene, Ford era un uomo, quando inventò il motore a scoppio, pensò agli uomini. L'uomo sente, la donna sente, tanto parla con l'amica, perché la donna cambia la marcia? Perché lo vede fare agli altri. Quindi io la vedo benissimo che va a 140 in seconda. Cosa fa la donna? Alza un po' la voce per sentire... Non condivido per niente tutte queste prese di posizione che sono un po' di sanno di pregiudizio di Paolo Migone, un noto comico di Zelighe, ma... Un per po' quello... misogino, eh? Un pochino sì, però insomma a molte piace guidare con i tacchi, dottore ecco. Spizzi. Ecco, questo purtroppo non va bene, nel senso che è chiaro che se devo trasferirmi di 3 chilometri va bene per uscire... alla cena speciale della settimana, non cambia niente, ma se devo fare un percorso lungo, il consiglio è di avere nel baule della macchina delle scarpe basse, assolutamente, perché il tacco alto mette il piede in una postura assolutamente assurda e anche pericoloso, perché nei rapidi cambi di pedale, che è la cosa più pericolosa nella guida, cioè quando accade qualcosa di improvviso, qualcuno ti taglia la strada, immaginiamo in strada piuttosto che no, io rapidissimamente devo spostare il piede. Se c'è un tacco che rischio che si piatti dentro da qualche parte, si aggancia da qualche parte, è un disastro. Quindi tenetevi le ballerine in macchina. Se qualcuno non ci ha pensato, insomma, questo escamotage può rappresentare invece una buona soluzione appunto per evitare incidenti o disattenzioni. Grazie dottore Spizzi per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie altrettanto Debra. Arrivederci, noi ritorniamo adesso alle nostre assicurazioni, a quanto costano, come possiamo fare per risparmiare, quali sono le novità che arriveranno, arriverà il contrassegno telematico, quindi non più il tagliando delle assicurazioni sul parabrezza, ma questo avverrà nel giro di un anno e mezzo, due, nel frattempo ci confrontiamo con i problemi di sempre, un premio che è molto alto e allora tanti gli ascoltatori che vogliono confrontarsi con i nostri ospiti di questa mattina, che sono Alessandro Santoliquido, amministratore delegato di Sara Assicurazioni, e Fabrizio Premuti di Consumer Italia. Sentiamo a questo proposito anche cosa succede sulle strade italiane a tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, questa mattina sono da sola, mi manca la mia Nicoletta Carbone, ma torna con noi domani. Allora, in sua assenza abbiamo deciso di affrontare un tema che si presta molto bene alle varie sfaccettature di Cuore Denari, il tema delle assicurazioni. Quanto paghiamo per assicurare la nostra auto, perché i premi sono così alti, cosa si sta facendo in prospettiva per abbassarli, la postura mentre si guida, e poi affronteremo anche il tema della rabbia alla guida, perché ci innervosisce sempre quello... il comportamento del conducente accanto a noi, insomma ci sono tanti motivi per cui ci viene sempre lo scatto d'ira in auto, e allora cercheremo di capire quali sono delle buone regole da adottare per calmarci alla guida, perché è molto importante, perché si evitano anche degli incidenti. Ci state scrivendo in tantissimi stamattina, Piero da Merate ci scrive, mi risulta, l'abbiamo data poco fa questa cifra Piero, che stiano circolando in Italia 4 milioni di veicoli senza assicurazione, è possibile che attraverso tutti i vari tutor, Autovelox e ZTL di città non si possa risalire attraverso le targhe agli utenti fuori legge, almeno servirebbero a qualcosa. Diamo questo suggerimento agli interlocutori che sono con noi questa mattina. Poi in altri appunto ci scrivono assicurare la patente non il mezzo, come il suggerimento di Luciano da Bassano del Grappa. Un altro ascoltatore ci dice, chiarite che lo sconto del 30% sulle multe nei 5 giorni vale se sono lavorativi e o da calendario, perché io ho preso una multa, ci sono state una festa un sabato e no domenica, non ho potuto fruire dello sconto. Grazie Giambattista del suo suggerimento. E allora abbiamo parlato poco fa di scarpe, di tacchi, di come i nostri piedi si muovono sull'acceleratore. Questo è importante anche per ridurre i dolori causati dal portafoglio, inteso come denari e non solo come il portafoglio che gli uomini non devono tenere in tasca. Sentiamo in questa schedina qualche suggerimento per risparmiare quando si guida. Sul mattopolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. se ne lascio sciotto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. Guidare ci costa sempre di più, complici il caro benzina e il prezzo sempre elevato dell'assicurazione per l'auto. Per correre ai ripari, molti italiani hanno iniziato a fare più attenzione al loro stile di guida, cercando di individuare le abitudini più economiche. Guidare a velocità costante, ad esempio, è il rimedio migliore per il 41% dei nostri concittadini, intervistati su questo tema da Direct Line. Al secondo posto, il 21% evita di tirare le marce. E al terzo posto, nel 9% dei casi, c'è chi si ricorda di spegnere l'auto durante le soste. Inoltre, più della metà degli intervistati afferma di aver limitato l'utilizzo dell'auto alle occasioni strettamente necessarie. Il 15% sta invece pensando di cambiare il proprio mezzo con uno che consumi meno, mentre il 2% ha adottato soluzioni alternative come il carpooling, ovvero la condivisione di automobili private. 800 24 00 24 per condividere con noi il vostro pensiero sul costo dell'assicurazione, su come si guida, stile di guida e anche rabbia che si manifesta molto spesso quando siamo al volante. Allora ritorniamo ai prezzi delle assicurazioni per le nostre automobili e sentiamo un paio di ascoltatori per poi commentare le loro posizioni con i nostri ospiti di stamattina. Gianni da Modena, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Niente, io sto constatando che i costi delle assicurazioni sono esorbitanti e una delle ragioni, secondo me, è il fatto che ci sono delle connivenze tra i periti dell'assicurazione e i carrozzai, perché ho avuto tante occasioni di constatare che i costi i preventivi erano largamente gonfiati, poi in fase di liquidazione non sono mai stati decurtati. Questo è il primo discorso. Il secondo è che le assicurazioni in Italia sono delle lobby e di conseguenza nessuno può permettersi di ridurre il prezzo delle assicurazioni stesse, perché evidentemente fanno un cartello. Allora Gianni, dunque questo è un problema che si è posto tante volte all'attenzione generale, che siano una lobby come ce ne sono tante, questo è indiscutibile, sì. Che fanno cartello, oppure insomma il sospetto ci è balzato agli occhi tante volte, non è questo magari la trasmissione, come dire, per commentare anche questo aspetto. Mi interessa di più quell'altro che lei ha sollevato. Sì. Fabrizio Premuti, vengo a lei. Consumer Italia, perché qualche anno fa si è tentato anche di introdurre il famoso indennizzo diretto, che in qualche modo voleva bypassare il ruolo dei periti anche nella stima degli incidenti, no? Del danno da incidente. Lei che cosa ne pensa su questo sospetto che ha l'ascoltatore di Modena, la connivenza fra periti e carrozzieri? Ahimè, è uno dei sospetti che ha in qualche maniera fatto ipotizzare il passaggio adesso al risarcimento in forma specifica, cioè alla possibilità per l'assicuratore di indirizzare lui stesso il veicolo da riparare in una carrozzeria convenzionata con la compagnia. Il sospetto c'è. Io adesso parto dal presupposto però che il perito assicurativo è un professionista, quindi non dovrebbe questo sospetto essere suffragato poi nella realtà dai fatti. A volte può capitare, purtroppo le mele marce ci sono dappertutto, ci saranno sicuramente anche tra i carrozzieri, anche tra i periti. Diciamo che se l'orientamento è quello di andare verso il risarcimento in forma specifica e se questa norma dovesse passare in maniera obbligatoria, dando tutti quei riscontri al consumatore, all'assicurato, di garanzia, la certezza della garanzia sulla riparazione, la certezza della sicurezza del veicolo dopo la riparazione nella circolazione stessa, allora probabilmente questa è una strada per toglierci definitivamente da torno questo dubbio e per risparmiare qualche liretta, qualche centesimo qualche euro, di euro così. Non è che sta a Roma, fra un po' mi torna al sesterzio Premuti stamattina. Santo Liquido, che ne pensa? Voi avete delle carrozzerie convenzionate? Sì, noi abbiamo una rete di carrozzerie convenzionate. Il problema delle carrozzerie convenzionate è riuscire a indirizzare un numero sufficiente di clienti presso le singole carrozzerie. Quindi, perché non ci vogliono andare in genere? Non hanno grandi incentivi ad andare, noi specie per quanto riguarda le RC-Auto. Per quanto riguarda le garanzie casco o collisione, noi cerchiamo, noi dimezziamo le franchigie e diamo dei benefici economici. Per quanto riguarda le RC-Auto facciamo un grosso lavoro, però non siamo oltre il 10% di canalizzazione. Ho capito. Quindi allora è un discorso, però senz'altro quello che dice Premuti è verissimo, nel momento in cui si sviluppasse questo tipo di questo tipo di intervento, i costi delle riparazioni scenderebbero in maniera significativa. Infatti, insomma, da quello che capiamo, dottor Santoliquido, ci sono tanti margini di manovra, ci sono tanti ambiti in cui si potrebbe intervenire, poi non si sa perché qua non riusciamo qualche volta ad andare avanti e affrontiamo appunto il problema di stamattina, compagnie che operano nel nostro territorio senza essere autorizzati, tagliando contraffatti, pur di pagare molto meno, addirittura qualche famiglia si avventura sul terreno anche della delinquenza, perché mi viene anche da dire così, e insomma bene comunque che ci siano ancora delle cose da fare, quantomeno speriamo che vengano fatte prima o poi. Chi sentiamo adesso, perché fra un minuto e mezzo devo andare in pausa, ma direi di raccogliere qualche ascoltatore, poi mettiamo fieno in cascina, tutte le loro osservazioni le commentiamo magari dopo. Gianni da Vercelli, Gianni buongiorno. Scusi, buongiorno a voi. Dunque senta, visto che fate giustamente il tesserino magnetico per quanto riguarda il pagamento dell'assicurazione, fate dotare le forze dell'ordine di macchinetta tipo il telepass, in modo che chi è che è sprovvisto di questa cosa a un certo punto suona e prendono prendono poi Qui dovremmo, certo, però dovremmo magari dotare le auto appunto di. Tra l'altro, dottor Santoliquido, inizialmente si era parlato impostare sulle auto un microchip, no? Forse l'idea di Gianni poteva anche essere simile a questa, che era un'idea ventilata all'inizio. Attenzione, il microchip avrebbe avuto degli oneri organizzativi molto forti. Abbastanza forti. Quindi il tema è che in realtà io non ho bisogno del microchip, perché con le telecamere, con la possibilità di controllare l'assicurazione alla macchina con SMS o poco più, è possibile identificare tutte le persone che girano senza essere assicurate. Il problema è che, ripeto, ci vuole un coordinamento di norme che permettono poi anche di perseguire la persona che viene identificata dalla telecamera come circolante senza essere assicurato. Allora, fra un po' ci fermiamo perché c'è il giornale radio, poi con tutte le vostre domande, che stamattina sono tantissime, ritorniamo, però riesco a sentire molto rapidamente Laura D'Alecco, che pone un tema molto interessante che si è sviluppato negli ultimi anni con, come dire, fasi di successo alterne. Laura D'Alecco, rapidissima, grazie. Sì, buongiorno. Io volevo capire se c'era una differenza fra le assicurazioni online e le assicurazioni invece di persona, ecco, sia in termini di premi sia in termini di prestazioni. Certo. Laura, ne parleremo tra poco. Intanto saluto anche la persona che ci accompagnerà nell'ultima parte del programma, il dottor Aquilar. Buongiorno. Buongiorno, allora, buongiorno a tutti i nostri allora, ascoltatori. Allora, qualche volta mi arrabbio alla guida, dottor Aquilar, poi le racconterò perché. A tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, parliamo ancora questa mattina di a 360 gradi, come mi piace spesso dire, auto, assicurazione dell'auto, quanto mi costa, e qui sono dolori per il portafoglio. Soprattutto abbiamo parlato, non soprattutto, abbiamo parlato anche di come tenere una corretta postura in auto, naturalmente per evitare lombociatalgie, i dolori alla schiena, il gonfiore delle gambe e tanto altro ancora. Adesso invece introduciamo un argomento che pure vi piace e non poco, perché ci capita anche molto spesso di innervosirci in auto. A me per esempio fa molto arrabbiare quello che ti si attacca al sedere dell'auto mentre guidi e comincia a lampeggiare perché devi spostarti. Io quelli veramente li prenderei tutti a sberle. Essere e benessere. Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. E tutti a dirmi, ma per forza. Sei sempre teso a guardare la strada. Prenditi un bel navigatore. Ma neanche per sogno. Io detesto che mentre guido ci sia una voce che mi parla e mi dice i percorsi che devo fare. Anche quando eccezionalmente accetto a bordo una persona viva, prima di partire gli chiarisco la mia legge. Io mi faccio i percorsi miei e tu ti fai i cazzi tuoi. Insomma, qua qualche parolaccia di troppo, ma ci capita anche di dirne quando al volante ci arrabbiamo. Come dare torto a Joelle Dix, anche il navigatore satellitare, probabilmente è un mezzo di distrazione del conducente. Sarà capitato anche a voi di arrabbiarvi al volante o di assistere alla trasformazione da Dr. Jekyll a Mr. Hyde del guidatore della macchina accanto? Sono tanti i motivi che fanno esplodere la rabbia, ma un gruppo di ricercatori li ha voluti mettere nero su bianco. Allora li scopriamo con il dottor Aquilar. Ancora buongiorno, il nostro psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Le capita anche di avere tra i suoi pazienti, dottor Aquilar, qualche automobilista che si arrabbia un po' più irascibile degli altri? E come no? E quello è un problema, naturalmente, perché per alcuni il traffico o comunque la guida è una fonte enorme di stimoli rabbiosi. Però per ritornare, diciamo, a quello che viene riscontrato nelle ricerche che ci fa più frequentemente arrabbiare, sono cose abbastanza ovvie ma in questo modo documentate, e sono, come dicevamo inizialmente, la violazione pericolosa delle norme, l'uso scriteriato dei fari abbaglianti, gli insulti o comunque comportamenti ostili da parte degli altri, quello che si attacca dietro col clacson bi bi bi bi e non finisce più, e poi la maleducazione non seguita dal chiedere scusa, l'eccesso di velocità e qualunque intoppo ed ostacolo, spesso collegato al fatto che c'è un egocentrismo da parte dell'automobilista dietro, a fianco, davanti a noi, che ci crea un ostacolo o un fastidio. Anche se possiamo dire in generale che la prima soluzione è quella di prevedere l'imprevedibile ovvio e di ricordarsene. Qui c'entrano due funzioni psicologiche particolari, l'attenzione e la memoria, che dobbiamo tenere bene allenate quando decidiamo di metterci al volante. Anche quando ci si imbatte, per esempio, in un ingorgo, è un altro momento in cui veramente il nervosismo va alle stelle. Non so se ha visto, professor Aquilar, il film Un giorno di ordinaria follia con Michael Douglas, lì tipicamente si rappresenta il caso di una persona che rimane bloccata lì nel traffico, non ne può uscire, magari ha un appuntamento, e là scatta veramente di tutto nell'animo umano. C'è anche, lei citava, professor Aquilar, il tema della maleducazione. Se vediamo un automobilista che si comporta con qualche gesto in una maniera veramente non tollerabile, anche lì è un motivo di rabbia per molti dei nostri ascoltatori. C'è un ascoltatore, Valerio, che ci scrive: visto che parlate di auto, salute ed educazione, potete fare un appello al non buttare i mozziconi dalle auto, è un tristissimo segno di inciviltà ed è bruttissimo assistere a queste scene a volte con i figli in auto. Sposiamo volentieri questo suggerimento. Dottor Aquilar, come possiamo gestire la rabbia al volante? Ci dia un piccolo vademecum. Dunque, il primo punto è quella di riconoscerla e di metterci in mente dall'inizio che saremo esposti ad una situazione nella quale ci faranno arrabbiare, e quindi dobbiamo come abbassare il volume della nostra rabbia di partenza. E poi si tratterà di tener presente che, indipendentemente dalle nostre emozioni, nel momento in cui noi viaggiamo dobbiamo preoccuparci della nostra sicurezza viaria, non di insegnare l'educazione o il codice della strada a quelli che non la conoscono e non lo conoscono. E quindi al primo posto dovremmo ricordarci che ci conviene proteggere noi stessi e i nostri trasportati, tenendo a bada anche l'eccesso di rabbia e riconoscendo, ricordando e tollerando che molte altre persone invece non si comporteranno nel modo più adeguato. Susanna, sì. Ricordarci la sicurezza. Susanna ci scrive: io non sopporto chi si compra le macchine grandi e le parcheggia come se fossero delle smart, mi arrabbio terribilmente quando le vedo. Giovanni: io e mia moglie litighiamo spesso perché lei non sopporta i miei scatti d'ira in auto, ma io proprio non riesco a controllarmi. Invece dovete imparare ad esercitarvi anche al controllo. Ma dottor Aquilar, c'è anche un altro problema per chi guida. A me capita spesso, perché qualche volta, l'ho detto prima, per raggiungere la mia famiglia nelle Marche, dei bei viaggi una volta al mese me ne devo fare, e non dico che mi annoio, però insomma qualche volta magari essere da soli può rappresentare anche un altro problema, no? Per chi guida, che non è sollecitato, stuzzicato, quindi magari non sta neanche sveglio, si può fare qualcosa per ridurre la noia del guidatore? Anche questo è un problema che porta conseguenze pericolosissime, ovviamente, per il rischio, di incidenti. E al primo posto dobbiamo diventare bravi a riconoscere la noia, che talvolta si sovrappone alla stanchezza mentale. Quindi dobbiamo riconoscere la noia che è derivante dalla lunga attenzione posta al compito, e se possibile possiamo prenderci una pausa. Esistono anche dei segnali psicofisiologici del bisogno di una pausa. Per esempio, se ci accorgiamo che stiamo sbadigliando o sospirando, avvertiamo una sensazione di fame, diventiamo consapevoli del bisogno di urinare, oppure cominciano delle fantasie che a volte molto frequentemente sono sessuali, che in quel momento non c'entrerebbero. Ecco, quello significa che c'è bisogno di una pausa, dobbiamo fermarci. Professor Aquila, questa non me l'aspettavo, le devo dire la verità. Ci sono altri ascoltatori che ci segnalano proprio i momenti di rabbia. La guida Marco ci dice: io non sopporto quelli che entrano nelle rotonde a tutta velocità, addirittura alcuni accelerano, inoltre molto sciocchi i motociclisti che si mettono nell'angolo dietro a destra e poi quando gli aggrada ti sorpassano a destra senza preoccuparsi di chi è davanti. Effettivamente anche i motociclisti che si intrufolano tra un'auto e l'altra, io anche questo è un'altra cosa che anche a me fa un pochino andare, lo ribadisco, la mosca al naso. Buttare i mozziconi è anche pericoloso, pensate se finisse uno di questi dentro il casco di un motociclista. È bravo anche questo ascoltatore che fa questa osservazione. Professor Aquila, abbiamo detto tutto? No, dobbiamo dire un ultimo paio di cosette velocissime. Sì? Al primo posto, che quindi ci vuole prima di mettersi in viaggio in macchina, una rassegnazione vitale. Essere rassegnati al fatto che non possiamo cambiare d'improvviso i comportamenti degli altri, ma non farcene rovinare la vita, perché lo sappiamo già da prima. E la seconda è che l'unico compito che sembra dalle ricerche non interferire con la concentrazione alla guida è ascoltare la radio. Quindi se Bravo. I nostri ascoltatori sentono Radio 24 saranno sicuri e non si annoieranno. Posso dirle che anche Stefano e Marco ci hanno scritto lo stesso suggerimento, che noi condividiamo al 100%. Dottor Aquilar, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. A presto, grazie per i suoi suggerimenti. Noi concludiamo invece con l'altro tema, che come lo mettiamo ai nostri ascoltatori, ancora li fa un po' arrabbiare. La polizza RC Auto, quanto costa, cosa possiamo fare per risparmiare? Gli ultimi 10 minuti in compagnia di Fabrizio Premuti di Consumer Italia e Adriano Santoliquido, amministratore delegato di Sara Assicurazioni. Avevamo tenuto in sospeso, Santoliquido, torno da lei, la domanda che ci ha fatto un'ascoltatrice prima della pausa, che ci chiedeva la differenza fra una compagnia di assicurazione tradizionale e una compagnia online, che per la verità si chiama compagnia diretta, perché ce ne sono tante in Italia, ma non hanno avuto poi, come dire, quel successo che magari si auspicava, no? Perché gli automobilisti si fidano poco, perché preferiscono il contatto diretto con l'assicuratore, e però per la verità permettono di risparmiare un bel po'. Lei che ne pensa? Ma allora, diciamo che le compagnie dirette e le compagnie con agenti hanno gli stessi obblighi e gli stessi doveri nei confronti dei consumatori. Quello che cambia è il modo di contatto che queste compagnie hanno nei confronti dei consumatori. Quindi nel caso della compagnia con agente il cliente va presso un'agenzia, come è sempre fatto tradizionalmente; nel caso della compagnia online o telefono oppure va sul sito internet per fare tutte le attività collegate alla polizza assicurativa. Non è vero che si risparmia sempre con le compagnie dirette, nel senso che le compagnie dirette hanno attuato una politica di segmentazione del mercato, quindi sono molto convenienti, possono essere molto convenienti su alcuni profili di clientela, ma lo sono molto meno su altri profili di clientela. Quindi il fatto che si risparmi sempre non è sempre così, così quindi, vero, però è vero che su alcuni profili si può anche risparmiare. Sono molto più convenienti. Tanto attenzione che anche i prezzi tra compagnie tradizionali sono molto diversi, quindi non anche è che tra di voi, diciamo, di vi fate competizione, c'è anche lì, giustamente. La differenza di prezzi tra compagnie è elevatissima, quindi se una persona effettivamente non è soddisfatta del prezzo della propria polizza, la prima cosa che deve fare è mettersi, deve andare per esempio presso il preventivatore dell'IVAS e fare mettere i propri dati e avere in tempi abbastanza rapidi tutti i preventivi delle varie compagnie di assicurazione. Ha fatto bene a ricordare l'esistenza del preventivatore dell'IVAS, che è l'autorità di controllo del mercato assicurativo, perché in realtà anche di questi preventivatori, comparatori di tariffe ne sono nati tanti nel nostro paese, occupano i vari segmenti, quindi si occupano di conti correnti bancari, non solo di assicurazioni, di bollette eccetera, però quello dell'IVAS è sicuramente il più completo, perché lì vi sono appunto le proposte di tutte le compagnie di assicurazione presenti in Italia. A costruirlo l'IVAS ha fatto molta fatica, però adesso è veramente completo. Poi questo non toglie naturalmente che potete andare dove meglio credete. C'è un ascoltatore che si chiama Roberto dell'associazione Mobas, che ci scrive: Deborah, siamo andati in Europa per denunciare la sperequazione tariffaria. Se vuoi parliamone, magari lo faremo, Roberto, in un'altra circostanza. Intanto racconto della vostra campagna, ma effettivamente Santo Liquido, che impressione fa alle compagnie italiane sapere che siete le più care d'Europa, che questo mercato è così rigido appunto in Italia, che non si può fare a quanto pare quasi nulla per abbattere un po' i costi che le famiglie devono sostenere, che devono obbligatoriamente assicurarsi? Allora, in realtà non è vero che non si possa fare nulla per abbattere il costo dell'assicurazione. Cioè, il costo dell'assicurazione del RC auto dipende da quanti incidenti si fanno nel paese e da quanto costa risarcire ogni incidente. Il quanto costa risarcire ogni incidente dipende dalle leggi che il paese ha che appunto regolano come si risarciscono questi incidenti. Le leggi italiane sono diverse dalle leggi degli altri paesi. Quindi noi siamo per esempio molto più generosi degli altri nel risarcire i danni alla persona in maniera elevata. E anche lì, tra l'altro, c'è un grande dibattito anche, no? È un tema delicato, però il tema è che se io voglio confrontare il costo dell'assicurazione italiana con quello francese, tedesco o spagnolo, come è giusto fare, è altrettanto però giusto ricordare che nel caso di danni alla persona in questi paesi il risarcimento è molto molto più basso rispetto a quello italiano. Quindi se noi volessimo andare in una direzione europea dobbiamo farlo non solo dal punto di vista dei premi, ma dobbiamo farlo per forza dal punto di vista dei sinistri, delle regole per il risarcimento, anche perché ricordo che le compagnie sono degli intermediari finanziari, quindi vuol dire che noi incassiamo i premi delle polizze e paghiamo i risarcimenti. Con i soldi degli assicurati, certo, ovvio. Certo, i soldi degli assicurati, ma se i risarcimenti sono alti perché le regole per i risarcimenti sono alti, noi non possiamo fare altro che aumentare il costo dell'assicurazione. Allora, non è un discorso di concorrenza, altro, è un discorso di regole per quanto riguarda i risarcimenti. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione per le vostre domande, osservazioni, commenti sul tema di quest'oggi. Avete ancora 7 minuti di tempo per interagire con noi. Adesso sentiremo anche altre riflessioni da parte di Fabrizio Premuti di Consumer Italia, ma chiaramente ci sono ancora degli ascoltatori. Renzo da Forlì, buongiorno. Buongiorno, no, io ho sentito prima parlare di carrozzerie convenzionate con le assicurazioni. Sì. Io ho avuto anche la casco, perché io sono grande, ormai è da molto che guido. E posso assicurare che io andavo benissimo perché mi davano la macchina riparata e lavata. Però quando arrivava da parte dell'assicurazione la fattura che aveva pagato, quindi mi metteva a conoscenza di quanto pagato, io mi sono sempre stupito e meravigliato dell'entità del prezzo. Mm-hmm. Insomma, bisognerebbe anche, ho avvisato anche l'assicurazione di questo, che non mi è stato proprio detto: ma a lei cosa interessa? Ah beh, certo, quindi lei addirittura si preoccupava del fatto che la compagnia pagasse troppo e addirittura rendesse più conveniente per lei magari cercarsi, no, perché per lei magari lei non pagava niente, giustamente avendo l'assicurazione, sì. Però la sua sensazione è che l'assicurazione pagasse in maniera spropositata per quel medesimo lavoro, appunto la correzzeria. E poi aumenta le tariffe. Allora devo ritornare da Santo Liquido. Santo Liquido è così? Guardi, io le posso solo dire, nella mia esperienza io ho gestito un network di carrozzerie commerciali. Voi non importante. Avete nessun interesse a strapagare il carrozziere in maniera appunto. Io risparmiavo con le carrozzerie convenzionate oltre il 22-23% rispetto a quello che pagavo per i carrozzieri non convenzionati su Milano, perché avevo un volume sufficiente di lavoro che dava a questi carrozzieri e gli risparmi erano significativi. Però insomma, anche lì tutto interesse della compagnia a risparmiare. È un metodo, ritengo, per ricordo fare... Ricordo sempre, scusi, che noi incassiamo i premi prima di pagare i sinistri, quindi nel momento in cui io risparmio sul sinistro, sono soldi che rimangono detti sul mio utile. Mm-hmm. Quindi non è che io ho interesse a pagare più un sinistro per alzare i premi, è tutto il contrario. Chiarissimo. Perché io incasso i premi e poi pago i sinistri. Fabrizio Premuti ha messo, come ho già detto prima, un po' di fieno in cascina, ha messo insieme un po' di commenti da fare sulle osservazioni degli ascoltatori che abbiamo sentito fino a questo momento. Ha sentito che abbiamo posto anche un problema che forse nelle altre puntate, quando in passato con Salva Danaio ci occupavamo di questo argomento, non era mai uscito: il costo della carrozzeria, il tema delle assicurazioni convenzionate. E insomma, qualche ascoltatore dice: ma io vado a guardare anche quanto le assicurazioni pagano per permettere a me di non pagare la carrozzeria se faccio un incidente. Mi sembrano costi un po' esagerati, che ne pensa? E questo effettivamente è avvenuto nel passato, io credo che avvenga ancora, però c'è da considerare anche un'altra questione, che quando si ripara una macchina bisogna essere molto attenti che la macchina venga riparata a regola d'arte, venga riparata con ricambi originali, venga riparata secondo i criteri della sicurezza per la circolazione. Quindi è molto probabile che io possa trovare tra il circuito dei carrozzieri chi mi faccia risparmiare, però anche lì devo pormi poi il problema: se quel risparmio è giustificato da un lavoro fatto effettivamente come va fatto oppure no. Mm-hmm. Io credo che su questo si debba ancora lavorare molto, nel senso che le reti di carrozzerie va bene, ma va bene se avremo la possibilità di mettersi ad un tavolo e discutere insieme alle compagnie di assicurazione su quali sono i criteri per i quali vengono selezionate le carrozzerie e soprattutto a quali risposte debbono dare poi ascolto le carrozzerie nel momento in cui riparano l'auto. Avete mai chiesto questo tavolo come associazione dei consumatori? Ma l'abbiamo chiesto nel passato tantissime volte, ahimè purtroppo questo non è mai avvenuto e abbiamo avuto modo di confrontarci guarda caso proprio con Alessandro Santoliquido, devo dire che almeno con lui abbiamo trovato una strada aperta, però purtroppo Sara Assicurazioni non è l'intero mercato, è una compagnia e altre compagnie questo tipo di dialogo lo hanno rifiutato ed è un problema vero perché il risparmio sulla riparazione è importante così quanto è importante il risparmio sulla questione dei risarcimenti per i danni fisici. Infatti, guardate, è un tema talmente delicato che vi prometto che organizzeremo una puntata alla quale peraltro in passato anche il dottor Santoliquido ha partecipato solo ed esclusivamente su questo tema. Stiamo andando verso la conclusione, sentirei ancora magari un altro ascoltatore e poi chiedo di riflettere per due secondi a Santoliquido e Premuti su due suggerimenti da dare ai nostri ascoltatori per poter fare in modo che questa spesa obbligatoria che ogni sei mesi o ogni anno si deve fare sia più sostenibile possibile. Però sentiamo dunque chi avevamo in che stava aspettando da un po', Daniele da Salerno, che deve essere telegrafico. Daniele, buongiorno. Buongiorno a lei, saluto a tutti. Allora, ho 40 anni e a 18 anni sul consiglio di mio padre mi presi subito la macchina e oggi a 40 anni mi trovo nella classe prima H sì. E pago 500 euro all'anno e mi trovo bene. Ho deciso di comprarmi una vecchia moto, quindi l'ho pagata 1000 euro, quindi è vecchissima, senza problemi che la rubasse. Fra un po' paga più l'assicurazione che tutta la moto, Daniele. La mia stessa assicurazione mi chiese più di 1000 euro. Ho girato altre assicurazioni, partivamo dai 1000 della mia assicurazione fino ad arrivare ai 1800. Come ha risolto? Ho bypassato il problema avendo mia sorella che abita in Veneto e lavora in Veneto. Mia sorella mi disse, senti, fai una cosa. In testa me la intesto io, pago io l'assicurazione qua, cioè io ho dovuto bypassare il e quanto paga sua sorella avendola in testa? 370 euro. Mamma mia. Daniele, allora, detto che non so quanto sia condivisibile questo escamotage per pagare meno, però insomma magari sua sorella è d'accordo e se lei fa, le auguro di no, ovviamente qualche incidente poi va sulla sua testa, sulla testa della sorella, però Santoliquido, anche trovare questi rimedi non è che sia proprio, come dire, un suggerimento molto corretto da dare, non lo so, oppure... Ribadisco, ci sono compagnie e compagnie, noi per esempio abbiamo una polizza che si chiama Sei Ruote, quindi cerchiamo di avere, per chi ha sia la macchina che la moto assicurata con noi, diamo delle condizioni. Poi di Daniele perché... sta a Salerno e lì della Campania c'è tutto un altro problema però, che rappresenterebbe pretesto per un'altra trasmissione, però... È vero, però anche in Campania ci sono degli ottimi clienti, se io conosco il cliente da parecchio tempo, so che è un cliente che non ha avuto sinistri, anche in Campania ci sono degli ottimi clienti, quindi compagnie attente. Grazie. Allora, comunque il tema non riusciamo a dare suggerimenti, lo dico io, fate tanti confronti, non magari andate a cercare la vostra nuova polizza all'ultimo momento, due giorni prima che scada quella vecchia. Quindi questo è quello che mi sento di dirvi, grazie ad Alessandro Santoliquido, a Fabrizio Premuti, grazie a Marco Lombardo, Isotta Scenna per l'aiuto in redazione, Gianmarco Ferronato in assistenza tecnica, ce l'ho fatta a concludere da sola, domani torna Nicoletta Carbone, a tutti buona giornata. Cuore e denari.